diciamo minimo 7, il minimo minimo che arriva di segnale, deve essere 7 qua, per dire a quelli che molte volte dice io ascolto Santiago 3, qua è Santiago 7, perché forse questa antenna tira bene, riceve molto bene, cioè che c'ha una bella ricezione. Ricordo che quella volta che ti ascoltavamo forte, alla radio proprio comprensibile, con una leggera differenza lì a Palmatra, immaginare. No, no, non è per vantarmi, già lo sai, non sono tipo che si vanta, però questa antenna che ho io, ti posso dire, forse è montata a regola d'arte, con tutte le cose che devono essere fatte, cavi buoni, connettori buoni, ce l'ho da 2005 montata, non ho mai fatto nessun lavoro, sta sempre andando alla grande, ogni tanto vedo qualche cornacchia che ci va là sopra, però grazie a Dio sta tenendo e non posso dire niente, già va bene. Poi mi ascoltano più o meno tutti, ricevo più o meno tutti, qualche zona magari un po' più negativa, per dire le zone Castelsardo, quelle zone lì, però tutta la zona al lato sinistro mio, Alghero, tutta quella zona Palmadula, Totubella, Ittri, Ussi, Muros, arrivano tutti oltre 9 qua. Grazie di accorgimento, il cavo di un certo tipo, insieme di cose. Idea di quanto sei come quota a livello del mare? Guarda, dovrebbero essere intorno ai 300 metri, 280 più o meno, più calcolati altri 20 metri di antenna. Guarda, se mi ricordo domani porto l'altimetro, una possibilità di studiare. C'è anche il GPS, io se per quella. L'hanno misurato anni fa, forse anche di più di 300, lo sai, pensandoci bene, forse più di 300 metri. C'è un problemino adesso però, Sergio, sento E magari come sto muovendo il cavo di microfono, ancora lo sta facendo? Un pochettino. Sta gracchiando, sta facendo qualche rumore strano. Ma non è che sei orientato verso la ventola? Sì, quello sì. Stava andando benissimo, c'era cioè poco fa e sento una specie di raschiamento. Lo lascia un po' acceso il tubo per cercare di riequilibrare le funzioni. Non lo so, vediamo un po' adesso come va, man mano che lo utilizzo. Ma una domanda, ma quel microfono c'ha la batteria? Sì, ma la batteria è una batteria vecchia, quindi probabilmente sia molto carica, capito? Allora la batteria, il problema è la batteria, cambia la scena un'altra, no? È solo la batteria. Mettiamo di questa, giusto per capire se un po' esce, perché all'inizio come l'ho aperto non c'era la batteria, quindi ho detto, ho capito perché c'è questa cosa. Poi abbiamo messo questa batteria che è vecchia, e quindi ho detto almeno la modulazione un po' cioè, capiamo che c'è, poi chiaramente non possiamo cambiare, perché con la batteria, già lo sai, questi microfoni, basta gli manca quel minimo di voltaggio che non danno più, no, quelle caratteristiche. Sì, assolutamente, poi il tunnel è ancora più sensibile degli altri a questo problema. Non parliamo dell'M600, l'M600 io non ho mai visto un microfono, una settimana ti dura la batteria, per un uso normale, mi dillo a Fabio, ne ha cambiato 5 o 6 in un mese. È una cosa assurda come consumo, mentre io ho l'M93, ce l'ho dal 2005, la batteria dentro, che c'ha l'M93, c'ha la lucetta, ed è ancora efficiente, io non ho mai visto una cosa del genere, stiamo parlando di 15 anni e sta ancora andando con la stessa batteria. È incredibile, evidentemente c'è un circuito, perché veramente in certi c'è una differenza, certi microfoni amplificati o altri tempo si esaurisce. Quante volte sì, ma quello per essere uno ZG, a me non piace, ti ripeto, è un microfono palmare, a me quelli da palmo sono contrario, proprio non mi piacciono, sono scomodissimi, io vado sempre quelli da tavolo, dall'inizio, però ho visto che è un microfono abbastanza, va meglio, ti posso dire, l'M93 dell'MB+5, se tu prendi l'MB+4 o l'MB+5 lo metti nella 48, l'M93 rende di più come qualità di modulazione. Per esempio, ci assomiglia come tipologia? Sì, forse è la dimensione della capsula, quello dell'M93 è un pochettino più grande come capsula. Il circuito di preamplificazione non lo so, sinceramente non l'ho mai guardato. Però quello che c'ho io, Luca gli aveva modificato la capsula, infatti tutti mi dicevano che usciva benissimo. Ma anche queste capsule sono un po' complicate. Tra l'altro che c'ho uso di cambio uguale a questo, dico che la capsula è come se fosse leggermente schiacciata, no? da un oggetto, non dico a punta, ma un po' arrotondato. Probabilmente una volta che le schiacci comunque non rispondono più a quelle caratteristiche. No, assolutamente, soprattutto le capsule microfoniche, se le deformi è come un clacson vecchio di macchina, è presente proprio il clacson, non le trombe. Se le schiacci un pochettino non hanno quella vibrazione e non riesci a trasmettere quello che stai dicendo con la voce, non riesci a darlo, ti dà una strozzatura. È come un altoparlante che quando sta vibrando tu gli metti la mano davanti e lo blocchi alla sospensione. Sì, ma infatti immagino che sia così. E poi hai visto che hanno questo strato frontale in alluminio, quindi è delicato. Naturalmente anche i colpi, diciamo più gli altoparlanti, perché questo diciamo non è il campo magnetico, è abbastanza piccolino, e il coso che c'è dietro, la bobina, la capsula, però gli altoparlanti secondo i colpi che centri, che le dai, non lo decentri e non funziona più bene, inizia a gracchiare, a salire male, perché deve essere perfettamente centrato. Ma altri altoparlanti di dimensioni grandi, vedevo io, che gracchiavano perché non erano centrati, allora bisognava di nuovo scucirli, centrare il magnete, eccetera. E così è lo stesso principio del trasduttore della capsula. Ok, cosa volevo dire? Guarda che c'ho quella roba, non so se te l'ha detto Riccardino, ho provato a chiamarti stasera, c'era Fabrizio, l'ha portato quella roba in officina. Ah sì, domani mattina ci vediamo. Se non disturbo passo la ritiro. E poi.